e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Eccomi ritrovata. Eccoti qui, finalmente! Siamo insieme per attendere la fine di quest'anno, l'arrivo del 2016, un anno, quello che lasceremo, il 2015, che dal punto di vista dei denari ricorderemo soprattutto per gli eventi delle ultime settimane, per tutto ciò che ha seguito, il decreto salva banche, ne abbiamo parlato moltissimo, e per quella che potremmo sicuramente definire una crisi della fiducia nei confronti delle banche in generale, di chi ci propone degli strumenti di risparmio e di investimento, ma è anche una crisi che, anche questo tema che abbiamo toccato più volte, rende l'educazione finanziaria, la consapevolezza una priorità ancor più di quanto non lo fosse prima. È sempre più importante sapersi orientare in questo mondo, capirne l'importanza, imparare a scegliere senza averne paura. Ne va del nostro futuro e ce ne dà un'idea molto chiara il primo tema di cui parleremo oggi. Parleremo di questa penultima puntata dell'anno, previdenza, gli strumenti di previdenza complementare, la pensione integrativa. Strumenti che sono sempre più importanti in una situazione che vede le pensioni pubbliche nel futuro sempre più ridotte, per non dire quasi inconsistenti. Ieri è stato un tema che ha toccato anche il Premier Renzi, sollecitato da una domanda di un giornalista nella conferenza stampa di fine anno. Proprio a previdenza e assicurazioni è dedicato il numero di oggi del Salva Risparmio, il manuale di educazione finanziaria in edicola con il Sole 24 Ore. Noi ne parleremo nella prima parte di Cuore e Denari. Voi intanto, se volete già iniziare a prenotare i vostri interventi sul tema della previdenza complementare, il numero verde è sempre lo stesso, è l'800 24 00 24. Quindi Deborah, ricapitolando, il numero odierno del Salva Risparmio che abbiamo qui a portata di mano ci esorta a non avere le mani bucate, anzi ci insegna a mettere le mani avanti progettando il nostro futuro per evitare di restare a mani vuote. Mani alla cornetta allora, 800 24 00 24, per saperne di più, per ricevere indicazioni e consigli, per trovare risposta a un vostro dubbio. Non restate con le mani in mano, anzi iniziate a sgranchire le vostre dita, fate un po' di stretching, aprite, chiudete, voilà, aggiungete anche delle piccole rotazioni dei polsi in senso orario e anti-orario e tutto. Siete pronti anche per la seconda parte della trasmissione, in cui parleremo, guarda un po', delle nostre mani. Da loro pretendiamo tanto, a loro restituiamo così poco, sia in termini di attenzione che di cura. Allora cerchiamo di rimediare, osserviamole, muoviamole, ascoltiamole e mettiamoci nelle mani della nostra esperta, che ci raggiungerà nella seconda parte della trasmissione e che ci guiderà nell'esecuzione di test di autovalutazione per misurare il benessere di questo organo straordinario, perché di un vero e proprio organo si tratta, e soprattutto ci darà suggerimenti e consigli per prevenire, per risolvere eventuali problemi. Chissà, chissà domani su che cosa metteremo le mani. Su che cosa metteremo le mani è proprio il modo di dire giusto per questa puntata. Dal punto di vista della pensione pubblica avremo poco su cui mettere le mani, e per questo dai nostri microfoni cerchiamo di parlarvi spesso di previdenza complementare. E allora stamattina lo facciamo con due ospiti. Intanto ringrazio per essere arrivato qui nei nostri studi di Milano il professor Alberto Brambilla, presidente del Comitato Tecnico Scientifico di Itinerari Previdenziali, è ideatore e coordinatore della Giornata Nazionale della Previdenza, ma ha avuto anche incarichi pubblici di rilievo in passato, è stato presidente responsabile del nucleo di valutazione della spesa pensionistica italiana, nonché autore della riforma del trattamento di fine rapporto del 2006-2007. Tutto il curriculum l'ho fatto, professor Brambilla. Buongiorno. Fa anche tante altre cose, ma noi questa mattina lo stresseremo proprio per questi suoi incarichi. Insieme a noi c'è anche Marco Lo Conte del Sole 24 Ore. Ciao. Buongiorno a tutti. Che invece l'estensore è l'autore della pagina di oggi del Salva Risparmio del Sole 24 Ore, proprio tutto dedicato, il numero 6, alla previdenza e alle assicurazioni. Ecco come la finanza lavora per le nostre pensioni future, un titolo coraggioso, Marco, intanto vorrei dire, soprattutto alla luce un po' di come la finanza ha deluso molti risparmiatori nelle ultime settimane, stiamo certo ritornando a parlare di un caso clamoroso di risparmio tradito, e quindi effettivamente c'è del coraggio in questo titolo, posso dirlo? C'è un modo per cui la finanza può lavorare per le nostre pensioni future, perché attraverso i fondi pensioni, che sono, qualcuno dice, dei consorzi di acquisto, è possibile investire sui mercati a prezzi, a costi molto più bassi che evidentemente uno da solo otterrebbe da un intermediario finanziario, e con un livello di controllo del rischio, dell'approfondimento, dell'analisi dei titoli, insomma in maniera molto più oculata e vigilata. E questo è sicuramente un vantaggio che un fondo pensione, che è un investitore istituzionale, si chiama così, può offrire a chi desidera aderirvi, ed è un vantaggio molto rilevante. Quello che dicevo, la differenza tra far da sé e andare tutti insieme, sicuramente si ottengono condizioni sotto tutti i profili migliori. Certo, faremo adesso un punto della situazione anche su quelli che sono stati i rendimenti ottenuti dai fondi pensione chiusi e aperti dall'inizio dell'anno, ma anche in un raggio temporale un po' più lungo, perché Marco in realtà si occupa anche di un arco temporale particolarmente complesso, lungo appunto gli ultimi 15 anni. Ma prima di tutto questo vorrei farvi sentire sulle pensioni che cosa ha detto ieri nella conferenza stampa di fine anno il premier Matteo Renzi. Noi abbiamo evitato in questo 2015 di intervenire sulle pensioni perché il rischio di combinare un pasticcio era elevato. Dovendo dare tranquillità e solidità ai risparmiatori, l'idea di continuare a dare elementi di tensione ci sembrava un azzardo. Quindi nel 2016 sicuramente discuteremo, ragioneremo. Sa, una cosa sono le pensioni d'oro, altra cosa sono le pensioni sopra i 2.000 euro, che è una cosa diversa. Io non considero una pensione da 2.000 euro una pensione d'oro, anche se magari ci è andato col retributivo, perché molti sono andati col retributivo e non col contributivo. Quindi il principio è, quando si parla di pensioni bisogna essere molto seri. Eh sì, Renzi ha detto abbiamo evitato di intervenire per evitare altri pasticci, ancora c'è il timore che si possano replicare le situazioni che si sono verificate dopo il varo della riforma di Elsa Fornero. Proprio negli ultimi tempi c'è stata la settima salvaguardia per gli esodati. Professor Brambilla, come commentiamo le parole di Renzi? Come potremmo sintetizzare il 2015 per la previdenza in Italia? Che anno è stato? Beh, innanzitutto sono perfettamente d'accordo con quello che è stato detto, perché fare interventi dopo quelli che sono stati fatti nel 2004-2005 e poi il completamento con la riforma Monti-Fornero, oggettivamente è abbastanza complicato. Quindi diciamo che dobbiamo dare ai pensionati e a quelli che andranno in pensione un minimo di certezza. Non possiamo tutti gli anni cambiare tutto, tanto più che pasticci con la riforma Monti-Fornero ne sono stati fatti, perché il fatto stesso degli esodati ha creato dei problemi. Per cui se ne riparlerà probabilmente l'anno 21, ma non per fare una riforma, ma semplicemente per coprire quei guasti, quelle rigidità che la Monti-Fornero hanno introdotto, ad esempio ritornare alla flessibilità in uscita, che era praticamente alla base del metodo di calcolo contributivo. La riforma Dini prevedeva dai 57 ai 65 anni, ora noi prevedremo probabilmente dai 63 ai 70 anni, ma una flessibilità in uscita ci vuole. E il secondo punto, ci spiega per chi non conoscesse questo concetto che cosa ci sta dietro, che cosa vuol dire flessibilità in uscita? E significa praticamente che oggi noi consideriamo una persona come una scatola di conserve. A 66 anni e 10 mesi esattamente lavora fino a quel momento a orario pieno, dopodiché va in pensione. Che abbia problemi, che voglia rimanere a lavorare, che non possa lavorare. Ecco, un sistema pensionistico deve garantire equità generazionale, equità all'interno della medesima generazione, però consentire anche a soggetti che magari a 63 anni decidono di prendere magari un po' meno di pensione, in realtà poi prenderanno la stessa pensione alla fine della vita, perché la prendono per un po' di anni di più e quindi prenderanno un pochettino meno, consentire a queste persone di uscire prima. Chi ha dei problemi, degli anziani in casa, altre, ecco, quindi questa flessibilità in uscita consente, e sarà una proposta che noi presenteremo tra l'altro il 25 di febbraio con Cesare Damiano, una proposta che prevede grosso modo 63 anni di età anagrafica e 35 anni di anzianità contributiva, con una riduzione tecnico-attuariale della pensione di circa l'8-9%. Questo consentirà più flessibilità, e l'eliminazione dell'altro pasticcetto, che era l'indicizzazione anche dell'anzianità contributiva all'aspettativa di vita. E quindi, anziché arrivare, oggi siamo già a 42 anni e 10 mesi circa, scatterà dal primo di gennaio dell'anno 21, si arriverà anche a 43-44 anni, una cosa che non esiste negli altri paesi, per cui riportare a 41 anni e quindi dare questo secondo canale di uscita. Questo sarà il tema. Magari dopo, però, vorrei fare un'osservazione sulle future pensioni. Ah sì, le vuole fare già subito? Perché noi di queste parleremo, peraltro, soprattutto ci rivolgeremo a chi sta adesso cominciando ad accarezzare l'idea, perché magari è entrato adesso nel mercato del lavoro, guardiamo anche la popolazione dei giovani, di attivarsi con uno strumento di previdenza complementare. Ci sono molti che contestano, le risorse non ce l'abbiamo perché il mercato del lavoro ancora ci tratta un po' non troppo bene, e di conseguenza lei su che punto voleva soffermarsi? No, io mi volevo soffermare intanto sulla pensione pubblica, posto che ovviamente, avendo scritto la riforma della previdenza complementare, ci credo, e quindi tutti dovrebbero farla. Conosce il tema abbastanza bene, direi. È preparato. Però anche su qui io vedo continui allarmi. In realtà anche l'ultima elaborazione che abbiamo fatto con la Commissione europea e che presentiamo nel terzo rapporto adesso a febbraio al governo, i tassi di sostituzione, cioè il rapporto tra l'ultimo reddito dell'ultimo stipendio mese e il primo assegno pensionistico, è intorno, per un lavoratore dipendente, intorno al 74-75%, quindi siamo ai livelli più elevati dell'OCSE. Cosa vuol dire? Vuol dire che se un signore prendeva 1000 euro andrà in pensione con 750 euro. Per fare queste proiezioni abbiamo considerato un lavoratore che entra a 24 anni, ha 7 anni di buco in tutta la sua vita, di cui 4 nei primi 5-6 anni di esercizio, e arriva alla pensione all'età normale, quindi a 67-68 anni a secondo dell'anno di nascita, perché siccome è indicizzato la speranza di vita, certo, abbiamo fatto questa previsione. Con peraltro un PIL non dell'1,5 ma dell'1%, che perché tra l'altro probabilmente, un indicatore che spesso ci dimentichiamo di considerare in tutti questi nostri ragionamenti. Benissimo, e una produttività che per noi sarebbe già una bella cosa arrivare allo 0,6-0,7%, perché la produttività è molto, adesso non abbiamo mica il tempo, ma è molto incidente come diciamo fattore per aumentare o diminuire le pensioni. Quindi con questi fattori, quindi abbastanza normali, noi arriviamo a questo tasso di sostituzione. Qual è il problema in Italia? Il problema in Italia è che noi abbiamo bassi redditi e bassi salari, quindi se uno ha 1200 euro di stipendio, è chiaro che quando va in pensione col 70% avrà 800 euro 850, è un pensionato povero. Beh, forse era già un lavoratore povero, è la povero situazione prima di partenza, infatti, che però le pensioni, ecco, dire come è stato detto, la pensione forse la prenderete a 70 anni, forse 75, e forse prenderete molto meno di quello che prendevano chi? Cioè, il tasso di sostituzione, paradossalmente, con il metodo di calcolo contributivo, dopo i 63 anni il metodo di calcolo contributivo premia enormemente, è una formula matematica, rispetto al retributivo. Quindi i tassi di sostituzione, paradossalmente, dei giovani saranno in proporzione più alti di quelli dei loro padri. Il problema è che i redditi non sono così alti. Chiarissimo, professor Brambilla, questo è il motivo per cui effettivamente bisogna focalizzare l'attenzione sul proprio destino previdenziale, accompagnando quello che sarà lo strumento pubblico ad uno strumento privato. Adesso ci arrivo con Marco Lo Conte, ma è già tempo di andare a sentire i suggerimenti per chi è in viaggio, per cui per chi, essendo stato colpito ed affascinato dal ragionamento che abbiamo fatto fino a questo momento, magari ipotizza già che il 2016 potrà essere l'anno in cui occorrerà mettere la testa su come costruirsi la pensione di scorta, perché così con Marco Lo Conte l'abbiamo sempre chiamato, il fondo pensione, il trattamento di previdenza complementare. Allora vi racconteremo un po' quali sono i passi da fare, quali sono gli elementi da tenere in considerazione oltre alla propria situazione individuale, personale e professionale. 800 24 00 24, aspettiamo i vostri interventi. Peraltro è già pronto un ascoltatore, un'ascoltatrice, Elena da Pordenone, che sentiamo tra poco. Cuore e denari. E Duran Duran cantano Che cosa succede domani, non possiamo saperlo cosa ci riserve il domani, nel bene e nel male, dobbiamo però essere pronti. Questo è il motivo per cui occorre pensare al proprio futuro anche dal punto di vista previdenziale. Questa mattina un ragionamento sul tema pubblico e privato, sulle pensioni pubbliche che prenderemo in futuro, sulla pensione di scorta che è il caso di cominciare a costruire. E naturalmente molti italiani hanno già fatto da anni la scelta di versare delle risorse in un strumento di previdenza complementare, di destinarci anche parte del trattamento di fine rapporto che sta maturando con la propria azienda. Peraltro quest'anno c'è stata anche l'iniziativa, che non ha avuto grande successo, di interrompere i versamenti ai fondi pensione da parte del TFR su indicazione appunto del governo, che ha dato questa facoltà a molti lavoratori, ma che in realtà Marco Lo Conte non ha avuto un grandissimo successo. No, e direi anche per fortuna, nel senso che era una misura tampone per l'emergenza, e per fortuna poca gente ha dovuto ricorrere a questo strumento, il che vuol dire che una propensione al risparmio da parte degli italiani c'è ed è forte, e pensare al domani è qualcosa che è un po' insito nella nostra mentalità, nella nostra cultura. Questo è senz'altro un fatto positivo. Si tratta di scegliere come, nella maniera migliore possibile. Tradizionalmente c'era il fai da te previdenziale, no? Si cercava di trovare un immobile, un bilocale da acquistare, da affittare. Ma ti dico subito che Antonio ce l'ha scritto. Possibilmente in nero una volta. Antonio ci ha scritto proprio questo. In nero non ce l'ha detto. No. Ha detto che ha comprato una casa. Ho 30 anni peraltro, quindi una scelta anche in età in cui tradizionalmente magari un ragazzo non ha proprio le risorse per poter fare un investimento di questo tipo. E ha comprato una casa. A Lecce, da affittare a studenti, con l'obiettivo: questa sarà la mia pensione. Ho fatto bene? Anzi, non ha messo neanche il punto interrogativo. Ho fatto bene, dice lui. Quello che è certo è che una casa, un immobile, è un bene illiquido. Se lo voglio vendere, è possibile che non trovi nessuno a cui venderla al prezzo che desidero. Mentre tutto ciò che finanza regolamentata e quotata, ma anche ancor di più la previdenza, è molto più flessibile. Non solo, se nel corso della mia vita lavorativa ho bisogno di denaro perché ho problemi di salute, perché voglio comprare una casa o perché così devo ripianare dei debiti, per dire, posso fare un prelievo, un'anticipazione dalla mia posizione presso un fondo pensione, e in questo modo, come dire, faccio un prestito a me stesso. Certo, vado a smobilizzare quello che ho costruito nel tempo, però in questo modo, volendo, poi posso riestituirmi lo stesso denaro successivamente. Ma insomma, è un modo molto flessibile di gestire la mia ricchezza accantonata, povertà, insomma, i miei denari accantonati. L'immobile è qualcosa di molto meno flessibile, e dunque sarebbe opportuno che una porzione di quanto gli italiani hanno messo in immobili possa essere invece destinato a strumenti dedicati. Insomma, la pensione si fa con i fondi pensione, con gli strumenti previdenziali, le case si fanno con le case, nessuno mangerebbe un'insalata fatta di cemento, cioè è tutto... Deve essere coerente la scelta, non si può improvvisare. Intanto ci sono molte famiglie che si stanno incaricando del problema per conto dei figli, come ha deciso di fare Elena da Pordenone, che salutiamo, la nostra prima ascoltatrice di questa mattina. Elena, benvenuta. Buongiorno a tutti, complimenti per la trasmissione. Grazie. Telefono per sapere di mia figlia. Ha 30 anni, lavora da 2 anni e già da qualche anno le ho fatto fare un contratto per la previdenza complementare. Sì. Io a mia figlia do ogni anno 3.000 euro che verso nella sua, diciamo, pensione complementare. È vero che quando andrà in pensione lei prenderà come rendita il 5,60 del versato? Allora, chi le ha dato questa indicazione, Elena? Come mai ha una percentuale? Non so, mio marito, non so da chi l'ha sentito. Allora, intanto bisognerebbe capire un fondo pensione chiuso, aperto. Che tipo di strumento, Elena, è? Adesso... È un fondo poste. Allora, vabbè, detto questo, da cosa può essere uscita fuori una percentuale di questo tipo? Non può essere già stabilito? Preso il tasso di sostituzione, i coefficienti, probabilmente il marito ha detto, se va in pensione a quell'età lì avrà il coefficiente del 5,60%, quindi bravo, gli avranno detto, quindi già denota che conosce abbastanza bene la materia. Però questo non significa che prenderà il 5%, cioè che cosa indica esattamente? Dell'ultimo stipendio, dipenderà da tanti fattori, dipenderà da per quanto tempo versa, che linea ha scelto, il tipo di rendimento, e sono tante tante cose. Certo è che bene ha fatto, perché noi quando abbiamo scritto è la anche norma, una buona cifra, insomma, quest'anno come previdenza complementare, una figlia di 30 anni lo ha fatto già da qualche anno, non appena è entrata nel mondo del lavoro la mamma ha fatto questa scelta per lei, le dà questo aiuto, quindi mi sembra... Diciamo che per farla breve, una persona che ha un orizzonte temporale di circa 30-35 anni, per avere il 10% in più di pensione, quindi il 10% di pensione complementare in più, deve versare all'incirca il 3% del proprio reddito. 3.000 euro probabilmente sono, forse, adesso non so che stipendio abbia, ma se fossero 30.000 euro lordi, comincia già a diventare il 10%. Quindi vuol dire già fare un accantonamento intorno al 25%. Ora, tornando ai nostri conti, se prende 1.000 euro e ha 750 euro di pensione pubblica, con questa arriva quasi a 1.000 euro, quindi ha fatto una previdenza una buona complementare scelta. Ha centrato l'obiettivo sostanzialmente. E la previdenza complementare ha fatto il suo dovere. Tra l'altro, lo diceva bene prima Marco, noi quando abbiamo scritto la norma sui fondi pensione, abbiamo chiamati sì fondi pensione, ma come secondo nome gli abbiamo dato salvadanaio. Perché in era realtà... che abbiamo chiuso la trasmissione, perché l'abbiamo pensato. Pensavano a te. Perché? Perché oggettivamente, se ci pensiamo bene, noi abbiamo previsto che anche quando c'è un bambino piccolo, 3-4 anni, possa fare già un versamento. Ok. È un sistema molto flessibile, perché io in qualsiasi momento posso prelevare i miei quattrini, perché devo andare a fare un corso all'estero, perché devo fare un master, perché devo diplomare, perché devo fare tante cose. Oppure successivamente per la casa, e vabbè, sempre per motivi di salute. E poi posso restituire questi quattrini, e quando li restituisco, quelle tasse che ho anticipato me le riprendo tutte, per cui io ho l'obiettivo finale della pensione, però a differenza del sistema pubblico dove io magari verso, come tutti noi, il 33% tra noi e il datore di lavoro e prenderò solo la pensione e solo in quel momento, con la previdenza complementare io posso a 18 anni fare un primo prelievino, perché devo andare a fare un corso di specializzazione, perché voglio imparare una lingua, e così via. Quindi il fondo pensione è lo strumento vero, più che magari la casa, il mattone, abbiamo capito come la pensate. O certa finanza anche, che magari puoi citare qualcuno, però non ha quella prospettiva di lungo periodo che invece dobbiamo mantenere. Allora, a proposito di questo lungo periodo, a proposito del tema periodo, questa mattina tu, Marco, proprio in questo tuo pezzo sul Sole 24 Ore, fai un punto della situazione sui rendimenti che gli strumenti di previdenza complementare sono riusciti ad ottenere negli ultimi 15 anni. I fondi pensione, complessivamente stiamo parlando di tutto il sistema, quindi chiaramente è una media, hanno però registrato rendimenti in crescita negli ultimi 15 anni del 70%, più del TFR mantenuto in azienda, quindi non destinato agli strumenti complementari, che ha registrato un incremento del 50%. Allora, per chi guarda in primo luogo proprio al tema rendimento come, come dire, fattore per scegliere su quale fondo pensione puntare o meno, questo ce la dice lunga su come sono andati, peraltro in uno scenario, in un contesto estremamente complicato per i mercati finanziari come quello che abbiamo vissuto dal 2008 in avanti. Ma sì, mettiamola così, io qui infatti ho cercato di sottolineare come la finanza può essere utile, può essere un fattore di vantaggio, di opportunità. Io non credo che bisogna aderire a un fondo pensione in base ai rendimenti, perché il miglior gestore non è questa o quest'altra banca, quella assicurazione piuttosto che l'altra banca, ma è il tempo. Decidere per tempo di accantonare quel poco che magari si riesce a mettere da parte, ma per un lungo periodo, ebbene, quello è il grande vantaggio. Poi i rendimenti possono essere più o meno positivi, questi sono rendimenti medi, quelli di cui ho scritto un'infografica che esplicita i momenti positivi, quelli meno positivi, le oscillazioni, la volatilità, ma io credo che il tempo sia il fattore premiante. una parola sui rendimenti, comunque è il caso di dirlo, questi sono, dicevo, rendimenti medi che sintetizzano una dispersione molto ampia di risultati. Ebbene, questo può spiazzare, no? Perché la volatilità, le oscillazioni a volte, per chi non è avvezzo ai temi finanziari, possono creare qualche contrarietà. È il caso comunque di sottolineare, di rassicurare sul fatto che la volatilità nel tempo non è un fattore di rischio ma di vantaggio, perché con i prezzi che cambiano periodicamente si vanno ad acquistare quote di prezzi diversi dei valori quota dei fondi pensione, e nel lungo termine è possibile, come dire, aggiustare il fattore di rischio alle proprie necessità, il cosiddetto life cycle di cui abbiamo parlato in passato e magari dopo riusciremo a esplicitare ancora meglio. Ecco, diciamolo un po' in italiano, così almeno per chi ci contesta sempre un eccessivo uso di terminologie in inglese li abbiamo accontentati. Prenderei la domanda di Antonella. Mi pare un'ottima idea. E poi le rispondiamo dopo il giornale radio, perché tra un po' arriva Antonella da Parma, benvenuta. Sì, grazie, intanto tanti auguri a tutti. Grazie altrettanto. Grazie, la mia domanda è questa. Io ho lavorato per 30 anni nel settore privato come dipendente e nel 2011 l'azienda ha chiuso, quindi mi sono ritrovata ovviamente iscritta alle liste di mobilità, dove poi non ho avuto nessun riscontro come succede normalmente, e mio marito ha un'attività in proprio nel settore commercio e io avevo pensato di dare una mano a lui e quindi a questo punto di diventare di fare una società insieme e di versarmi i contributi per andare avanti nel periodo che mi mancava poi per una futura pensione. Quando sono andata al patronato mi è stato fatto i conti e spiegato da due patronati diversi volutamente che praticamente io avrei dovuto versare circa 3.000 euro all'anno di contributi INPS per vedermene riconosciuti, il momento in cui andrò in pensione nel 2031, ben 2.400. Quindi io sono a meno 600, per cui dico veramente ridicolo e assurdo. Tanto vale che io questi soldi me li investi in altro modo. Allora Antonella, le spieghiamo il motivo per cui accade questo dopo il giornale radio, a tra poco. E denari. In pratica il domani è già oggi, ci aiuta a pensare al nostro domani il Salva Risparmio. In edicola oggi con il Sole 24 Ore, il tema di questo sesto numero di un lungo ed articolato percorso che ha fatto il Sole 24 Ore in queste ultime settimane è la previdenza e le assicurazioni, con un focus specifico sulla previdenza complementare alle pensioni integrative, tema che abbiamo deciso di affrontare anche noi quest'oggi in questa penultima puntata dell'anno di Cuore e Denari, perché magari così vorremmo invitare le persone che hanno magari anche avuto un contratto di lavoro quest'anno, che hanno stabilizzato il proprio posto di lavoro. Noi abbiamo sempre particolarmente a cuore i ragazzi, i giovani, magari stanno proprio meditando di fare una scelta di individuazione di uno strumento di previdenza complementare l'anno prossimo, e allora cerchiamo di capire da che cosa partire per fare una scelta adeguata ed oculata. Intanto però ci sono anche coloro che si stanno avvicinando alla pensione, quella pubblica, e si vedono sfuggire questo traguardo perché magari la vita ci ha messo lo zampino, c'è stato qualche ostacolo di natura professionale, come quello che è accaduto ad Antonella da Parma. 30 anni di lavoro nel settore privato, nel 2011 ci ha raccontato la sua azienda ha chiuso, che cosa ha fatto? Si è messa in società con suo marito, che aveva una sua attività società commerciale, appunto, un'attività autonoma, e quindi sta cercando di completare i versamenti appunto previdenziali per raggiungere poi i requisiti per andare in pensione. Però insomma dice che i patronati gli hanno fatto dei calcoli non coerenti, e lei sostiene che le abbiano detto che versando 3.000 euro l'anno di contribuzione INPS, quello che prenderà di questi 3.000 euro di questa fase quando andrà in pensione sarà una cifra molto più ridotta. Ci abbiamo ragionato a lungo a microfoni spenti e non siamo riusciti a capire, professor Brambilla, Alberto Brambilla, le motivazioni per cui si ridurrebbe questa cifra. No, tutto sommato. Intanto bisognerebbe fare una specifica, cioè lei paga 3.000 euro per 5 anni, poi per quanti anni prende 2.600 euro? Perché se li prende per altri 15 anni, io la cosa la farei. Allora, quello che è vero è che, essendo una lavoratrice dipendente, tra lei e il datore di lavoro hanno pagato il 33% di contribuzione sullo stipendio. Ora è una fase nuova, ecco. Diventa autonoma e quindi pagherà tra il 22 e il 23%, è destinato ad arrivare al 24% nel 2018 come contribuzione. Quindi avrà una pensione che sarà composta da due spezzoni, uno da lavoratrice dipendente con una pensione coerente col 33% dei contributi versati e l'altra coerente col 24%. C'è la totalizzazione dei periodi contributivi, peraltro tutti noi ormai pro rata, salvo i giornalisti, siamo... Siamo tutti a contributivo, per cui secondo me il fatto di poter versare, peraltro attenzione, anche qui versa 3.000 euro, ma li deduce fiscalmente, per cui se ha un'aliquota marginale del 30%, ci vuole poco, basta dichiarare 17-18 mila euro lordi, e intanto non sono più, perché il 30%, quindi 900 euro, glieli paga lo Stato. Quindi secondo me è conveniente versare, anche perché può anticipare l'età di pensionamento, soprattutto per quello che dicevamo in apertura. Se si aprisse la flessibilità in uscita, cosa molto possibile, molto prevedibile per l'anno 21, insomma, con 35 anni di contributi, certo, entra nella flessibilità. Tra l'altro, per la donna bisognerebbe aprire il cosiddetto capitolo opzione donna, che pure ha fatto tanto discutere quest'anno, ma magari gli dedicheremo una puntata apposita. Nel frattempo, prima di sentire un altro ascoltatore che si è messo in linea, volevo anche dare spazio ad alcune considerazioni che ci stanno arrivando al 349-238-6666. E do spazio, Marco, perché questo è un tema che tu affronti in maniera abbastanza approfondita sullo speciale di oggi. Allora, c'è chi chiede: chi vigila sui fondi pensione? Vedo che questa informazione molti dei nostri ascoltatori non ce l'hanno, e qualcuno un po' provocatoriamente dice: spero non sia Consob e Banca d'Italia, ovviamente alla luce dei fatti recenti che sono accaduti. Esatto, l'organismo è un altro e adesso ve lo spieghiamo. Mauro ci scrive da Rimini: come fidarsi dei gestori dei fondi pensione? Potrebbero volatilizzarsi, e allora è chiaro che i fatti finanziari generano anche dubbi e timori. Spieghiamo. Di questo tipo. La COVIP è l'autorità che vigila sui fondi pensione. COVIP sta per Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione ed è un'autority dedicata proprio alla previdenza complementare. Da qualche tempo vigila anche sugli enti previdenziali privati, ossia le casse professionali dei professionisti, le casse previdenziali dei professionisti come giornalisti, che sì, sono a retributivo, ma su tutto l'arco della sua carriera, della loro carriera, il che praticamente fa collimare il retributivo con un contributivo. Perché aveva fatto un po' di maldicenze sul nostro conto. Per cui la COVIP vigila sostanzialmente sulla previdenza privata ed è un'autorità che appunto ha tutti gli strumenti di un'autorità di vigilanza per fare ispezioni cartolari, come si dice, cioè sui documenti o in sede, in loco, nelle sedi dove si svolgono i fondi pensione. Poi chiaro accanto che accanto a tutto questo obbliga anche i fondi pensione ad inviare un rendiconto annuale a tutti gli iscritti su quello che sarà teoricamente il percepito quando sarà il momento di andare in pensione. Perché ti ho subito brutalmente interrotto su questo? Perché un ascoltatore, Giuseppe, su Facebook ci scrive: dal 2000 verso tutto il TFR nel fondo pensione aziendale, nel 2033 andrò in pensione, ma non ho idea di quanto sarà la pensione integrativa. Come mai è possibile che questo signore non abbia nessun documento che gli dia già la proiezione? Cioè, per il nostro vituperato fondo pensione dei giornalisti ce lo manda questo rendiconto, non perché siamo dei raccomandati, ma perché è obbligatorio. Perché è obbligatorio, è una lettera che arriva una volta l'anno, evidentemente non ci facciamo molto caso a una comunicazione che ci arriva via posta una volta l'anno. Sarebbe più utile farsi un po' parte attiva, insomma andarsi un po' a guardare le proprie cose, andare a vedere sul proprio sito, sul sito internet del proprio fondo pensione, fare un'elaborazione, rivedere quelle stesse cifre che periodicamente il nostro fondo pensione ci comunica ogni anno, anche perché su tutti i siti di tutti i fondi pensione obbligatoriamente, lo dice la COVIP, l'ha stabilito la COVIP, deve essere installato un calcolatore, un tool, un software che ci consente di fare un'elaborazione, un simulatore. L'Italia è un paese meraviglioso e paradossale. Sul secondo pilastro previdenziale questo è obbligatorio da tanti anni, sul primo pilastro, che è quella parte più importante, più consistente, ancora si fa un po' fatica a partire. L'anno scorso, l'inizio, quest'anno l'iniziativa La mia pensione dell'INPS targato Boeri, che fa ancora un po' fatica. La versione telematica della busta arancione, esatto. Definiamola così, così almeno per renderla fa ancora più un po' fatica a decollare, perché proprio ci sono dei costi e questi costi sono, queste spese sono un po' a rischio. Ma tornando ai fondi pensione, sì, si era detto della Covid per la seconda domanda, la sapevo ma non la ricordo. Possono più fallire i fondi pensione? Allora, spieghiamo come funziona un fondo pensione. Velocissimo, perché siamo in chiusura di questa prima parte. Il fondo pensione prende i contributi dei lavoratori, non li investe direttamente sui mercati, fa dei bandi, delle gare d'appalto e dice ai gestori: chi mi garantisce questi rendimenti o chi mi dà la prospettiva di guadagnare, di far crescere i contributi, sceglie il gestore che ritiene più opportuno scegliere secondo un bando pubblico, trasparente, affida questi denari a questi gestori, gestori del risparmio, ma non direttamente, tramite una banca depositaria, cioè mette un patrimonio in una cassaforte. Che è un lavoro triste, dicono alcuni, no? Perché muovono denaro, ma non decide, la banca depositaria non decide, quindi è un terzo soggetto. Diciamo che il gestore non può scappare con la cassa, perché la cassa sta dentro. Sta altrove, non ce l'ha in mano, è patrimonio separato, e questo garantisce gli aderenti, il fondo pensione, il gestore e la banca depositaria. Sono quattro soggetti diversi, nessuno ha tutte le chiavi per fare quello che vuole, quindi nessuno può scappare con la cassa. Ottimo. Allora, l'ultima considerazione l'assegniamo ad Attilio da Milano, che è un ospite autorevole che stamattina si è candidato ad intervenire a Cuore Denari. Attilio, quando ho raccontato le sue caratteristiche che lei ha anticipato al nostro centralino, qua l'hanno individuata subito, quindi la conoscono molto bene i nostri amici qui a Cuore Denari. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Benvenuto. È il presidente, dice, di un fondo pensione di una grande assicurazione. Presidente e direttore generale, volevo tornare a una domanda che faccio ai conduttori, che è quello che secondo me ancora il governo deve fare ancora qualcosa per rilanciare questi fondi pensione, perché negli ultimi anni, invece di fare delle riforme come sono state quelle del 95 e del 2005, ormai la 252 ormai è una riforma illuminata e che va perseguita, ultimamente alcune provvedimenti non vanno proprio in questa direzione. Attilio, purtroppo devo chiuderla, ha probabilmente ragione, diciamo che la congiuntura economica non ha aiutato a rimettere la testa con la dovuta attenzione su questo argomento. Un minuto ad Alberto Brambilla per commentare questa osservazione di Attilio. Arriverà il momento giusto per ritornare di nuovo su una meccanismo di incentivi nuovi sul tema del fondo pensione integrativo, del fondo integrativo, non lo so, secondo lei allora, Attilio, dove voleva arrivare a parare? La prima cosa è la conoscenza, perché soltanto conoscere si può, come dire, scegliere consapevolmente, per cui quello che noi auspichiamo e sul quale stiamo lavorando un po' tutti è quello di riaprire un canale, un semestre di informativa, al quale poi seguirà un altro semestre di silenzio assenso. Cioè, cosa vuol dire? Sì. Vuol dire che noi dobbiamo fare in modo che tutti conoscano intanto la loro pensione pubblica. Chi ha più di 20 anni avrà l'elaborazione effettiva, chi ha meno di 20 anni l'anzianità contributiva avrà dei dati standardizzati, come accade in Svezia per esempio, e poi sapere quanto versare. Per esempio, quando io vado a dire che basta il 3,5% della retribuzione, se siamo a 20.000 euro, sono 600 euro l'anno, non è una cifra enorme, sono 50 euro al mese, dedotte le tasse, sono poca roba. Se poi c'è anche il datore di lavoro, sono 25, quindi non è una cosa improponibile. Facendo questa operazione di conoscenza, noi già risolviamo un grandissimo problema sulla previdenza complementare, quindi possiamo aumentare di molto i livelli di consapevolezza e di adesione. Insomma, da quello che abbiamo capito, Attilio, esponente del settore privato, chiede proprio anche un sostegno pubblico nel incentivare questi meccanismi di conoscenza, che però evidentemente non sono sufficienti. Incentivi fiscali sono molto alti, sono forse tra i migliori. Incentivi sulla formazione, sono tutti da fare. Grazie ad Alberto Brambilla, Marco Conte, per essere stati con noi. Buon anno ad entrambi, ci risentiamo presto. Auguri a tutti. Ci vediamo e ci sentiremo nel 2016. Assolutamente sì. Adesso andiamo a prenderci una boccata d'aria, vediamo se di che qualità. La faccenda. È Diamo il buongiorno al dottor Mauro Mocci, medico ISDE, Associazione Medici per l'Ambiente, con cui continuiamo il nostro tour per le città italiane. Buongiorno dottor Mocci, bentornato. Buongiorno. Dove ci porta oggi, che è tornata anche oggi Debora? Rifacciamo il percorso da sud a nord e partiamo con Trapani, che è un bel verde, quindi qualche città nonostante tutto ancora è verde. Poi saliamo, andiamo a Terni, che invece è un rosso marcato, e che le PM sono molto alte, come abbiamo detto ieri, cominciamo a dare dei dati, arrivavano a 115 e da un po' di giorni è così la situazione, ma anche il particolato sottile 2,5 è 93, quindi molto alto. Più del doppio. E poi saliamo a Brescia. Ecco, come anche se Brescia, la cava? Anche Brescia è un rosso. È un rosso sia perché il particolato, il PM10, è un po' alto, parecchio alto sopra i limiti di legge, 67, e il particolato 2,5 è 61, quindi molto alto. Considerate che il limite del 2,5 dovrebbe essere 25, mentre per il PM10 dovrebbe essere 50. Allora abbiamo una situazione di rosso anche per Brescia. Quindi Lì c'è un inceneritore, quindi potrebbe influire in qualche modo sul particolato ultrasottile. L'inceneritore qualcuno chiama termovalorizzatore, ma è un inceneritore. Quindi poi Debora, dovendo scegliere, no, l'aria migliore, dovremmo trasferirci almeno oggi a Trapani. Andiamo, facciamo che male non si sta. No, ma se qualche posto anche vicino, non c'è bisogno di fare tutti quei chilometri. Dove andiamo? Perché la maglia rosa oggi la voglio dare a Savona. Savona e Vado Ligure, probabilmente questa città dove il particolato è molto basso, ma ha giovato della chiusura della centrale a carbone che esisteva lì a Vado Ligure, quindi molto probabilmente giova di questa chiusura, sicuramente, perché il particolato che fuoriesce dalla centrale a carbone è uno dei peggiori in assoluto, perché dobbiamo dire che non tutto il particolato è uguale, c'è particolato e particolato. Quindi a seconda di quello che noi bruciamo, il particolato ha una sua caratteristica di metalli pesanti, quindi di arsenico, contenuto di arsenico, mercurio, cadmio, nickel, a seconda di quello che noi stiamo bruciando. Andiamo alla maglia nera. Una maglia Mocci. Nera la do a Terni, nonostante è un rosso, è una maglia nera. Perché? Nonostante la situazione che hanno, il comune non ha preso provvedimenti, ma ha deliberato di li prenderà da metà gennaio, troppo tardi. I provvedimenti vanno presi subito, e la do nera perché il sindaco è un medico. Oltretutto, quindi è un aggravante, lei dice, perché le cose le sa. È un aggravante, componente di una commissione igiene e sanità e salute, quindi dovrebbe avere una maggiore attenzione, e i provvedimenti non vanno presi nel futuro, ma vanno presi ieri, come diceva qualcuno. Allora bisogna fare in fretta. E uno dei provvedimenti che ho visto sarà la lavatura delle strade. Mi auguro che si faccia con un mezzo alimentato a gas, altrimenti l'inquinamento del mezzo sarebbe ulteriore. Il motivo per cui si è abbassato in alcune aree il particolato, nonostante non ci siano state le piogge, è probabilmente da riferire alla intensa nebbia che c'è stata, e la nebbia alcune volte aggrega e fa precipitare. Infatti, è come quello ce lo spiegava anche il dottor Franzetti, a volte la nebbia dà una mano. Purtroppo il blocco, come avevamo già previsto, come avevamo già detto, è servito a poco. Se blocchi, meglio le targhe alterne. C'è stato uno studio fatto in Francia l'anno scorso che ha dichiarato in modo molto chiaro che è preferibile fare le targhe alterne, e se si vuole incidere sul traffico bisogna incidere nelle ore di maggiore punta, quindi bisogna chiudere quando c'è maggior traffico, non quando ce n'è poco. Quindi meglio le targhe alterne del blocco, quindi meglio Roma di Milano. Questo lavoro fatto a Parigi dimostrava che c'era stata una riduzione del 15% del particolato e del 20% di ossidi d'azoto, avendo fatto delle targhe alterne l'anno scorso. Questa una riduzione del traffico a Parigi. Questo. Sì, dottor Mocci, quindi mi scusi, così se riesco a intervenire, volevo chiederle meglio quindi la soluzione di Roma rispetto a quella di Milano. Sì, perché i dati sono sulla media. E la media, non interrompendo quelle ore, la media non si abbassa perché noi poi aumentiamo nelle ore di punta. Certo. Quindi se dovessimo fare una valutazione puntuale, è ovvio che in quelle ore, dalle 10 alle 16, avremmo una riduzione del particolato. Ma poi avremmo un aumento eccessivo, perché chi sa che quel periodo è chiuso si procura di andare prima o dopo. E quindi un aumento che nella media torniamo nei valori normali. Allora, noi ci sentiamo domani, dottor Mocci, sempre alla stessa ora, per misurare la qualità dell'aria. Forse daremo anche una classifica delle ARPA, vero, delle varie ARPA. Il dottor Mocci le sta un po' monitorando per capire quanto sono chiare, quanti loro dati sono fruibili e comprensibili dai cittadini. Quindi, dottor Mocci, lei continua a lavorare per noi e ci sentiamo domani. Buona giornata. Senz'altro. Buona giornata a tutti. Questo è il signor Pollice, grassoccio e posa piano. Questo è il signor Indice, che segna da lontano. Medio si presenta di massima statura. Anulare porta anelli su misura. Mignolo, guardate che buffo, che piccino, è grande come il nasino del mio bel bambino. E apriamo con una filastrocca sulle dita, perché saranno loro le protagoniste della seconda parte di Cuore Denari. Ne abbiamo 10, avremo modo di parlarne approfonditamente. Sappiamo bene che, come succede in una squadra, il lavoro di uno garantisce tutela la qualità e il risultato del lavoro di tutti. Sicuramente lo avete anche voi toccato con mano, perché a volte a compromettere la funzione e il benessere di una mano basta un dito. E questo lo sa bene la dottoressa Odella, che è in linea con noi. Buongiorno, dottoressa Odella. La chirurgo della mano Alpini di Milano, fa anche rima, vedo, vero? Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Dottoressa Odella, ogni dito, come diceva la nostra filastrocca, ha una sua funzione. Anche il mignolo, che è il più piccino, il più sottile, conta quanto il pollice, corto e possente. È vero, le dita della mano sono tutte molto importanti, ma proprio come ha detto lei, Nicoletta, le più importanti sono il pollice, l'indice ed il mignolo. Il dito più piccolo della mano, che ci sembra forse quello meno importante proprio perché è piccolo, invece è uno dei più importanti, perché è quello che ci aiuta nell'afferrare gli oggetti. Se noi cerchiamo di afferrare un oggetto dal tavolo, prendere un bicchiere, qualsiasi oggetto, ci rendiamo conto che il primo, il secondo e l'ultimo dito della mano sono proprio le tre dita più importanti per la presa. Possiamo fare la prova. Adesso io ho una bottiglietta d'acqua, adesso inonderò la nostra scrivania. Provate anche voi. 800 24 00 24, per parlare delle nostre mani. Partiremo dalle dita, ispezioneremo poi naturalmente anche il palmo e arriveremo fino al polso. Non ci dimenticheremo sicuramente di lui, di questo anello, che non è un anello debole, ma un anello essenziale anche per il benessere della mano e il benessere del nostro braccio. Ma, dottoressa Della, torniamo al pollice, un dito super specializzato, opponibile, è un aggettivo che fa la differenza, è proprio questa sua qualità che ci permette di eseguire gesti di precisione. Per rendercene conto, ancora una volta, basta mettere in stand-by il pollice mentre eseguiamo operazioni anche molto semplici, per toccare con mano che senza questo dito diventerebbero molto difficili, se non impossibili, anche dei gesti molto semplici. Dottoressa Della, sarà per via di questa sua specializzazione che il pollice ci dà più problemi rispetto ad altre dita? Certo, è proprio così. Il pollice è l'unico dito che, come ha detto lei Nicoletta, ci permette il movimento dell'opposizione, che ancora una volta è quello che ci permette di afferrare gli oggetti ed è quello che ci permette di fare i movimenti fini, esattamente come lei ha detto. Siamo gli unici nel mondo animale ad avere questa possibilità di opposizione. Se ci facciamo caso, se ci pensiamo, siamo gli unici che possono fare questi gesti. Ed effettivamente il pollice ha un'articolazione alla sua base, che è l'articolazione trapezio metacarpale, che è un'articolazione relativamente recente. E che cosa succede? Che usando molto il pollice in tutti i nostri gesti quotidiani, ed essendo questa articolazione forse ancora imperfetta, va incontro molto più frequentemente rispetto alle altre articolazioni ad un'usura, ad una degenerazione. Ah, brutta parola, ad un invecchiamento. Ecco perché spesso abbiamo dolore alla base del pollice, e specialmente noi donne come genere siamo più predisposte rispetto agli uomini a sviluppare questa degenerazione articolare, e io amo dire che non solo per una condizione di genere, ma anche perché forse rispetto agli uomini facciamo qualche lavoro in più nella nostra attività quotidiana. Dottoressa Della, già qua ha guadagnato 10 punti. 800 24 00 24, chiamateci se avvertite un dolore alla base del vostro pollice, un dolore che si manifesta così all'improvviso o ha dei momenti particolari, si manifesta più a riposo, dopo uno sforzo, che caratteristiche ha? È un dolore che colpisce, abbiamo detto, maggiormente le donne, sì, e le donne nel periodo della menopausa, quindi intorno ai 50 anni. È un dolore che viene sollecitato quando magari apriamo o chiudiamo il tappo di una bottiglia o di un barattolo, o quando cerchiamo di girare le chiavi di casa, quando cioè sollecitiamo la pinza indice pollice. Questo sicuramente è il movimento che scatena questo dolore. Ma ci sono delle fasi di acutizzazione in cui il dolore è presente purtroppo anche a riposo, sono delle fasi per fortuna transitorie all'inizio e che possono essere ben controllate già con una terapia completamente conservativa. Allora, intanto che mettete alla prova il vostro pollice, noi continuiamo ad osservare le nostre dita che possono cambiare forma. Chi porta anelli, chi porta la fede, avrà notato che col tempo, ad esempio, la fede diventa sempre più difficile sfilarla. Dottoressa Odella, è vero che anche le dita si arrotondano, no? Diventano magari un pochino più cicciotte, ma non è solamente un problema di rotondità. È un problema di ossa, purtroppo, ancora una volta. Le articolazioni, anche a livello delle dita lunghe, vanno incontro ad un'usura, ad un invecchiamento. E questo invecchiamento comporta una progressiva deformità di questi capi ossei, che fanno sì che poi le dita appaiano più larghe, come dice lei, Nicoletta, un po' più arrotondate, un po' più cicciotte, e quindi gli anelli fanno fatica a passare, proprio perché c'è ancora una volta un invecchiamento articolare. Allora, noi naturalmente ci fermiamo qui, restate con noi, andiamo a sentire i mercati. È l'ultimo giorno dell'anno, quindi guarderemo con particolare attenzione. Voi restate con noi perché la dottoressa Odella ci suggerirà dei test di autovalutazione per misurare l'efficienza e il benessere delle nostre mani. Naturalmente ci aggiornerà sulle ultime novità nel trattamento di alcune patologie. Mi riferisco al morbo di Dupuytren, di cui parleremo tra poco con Riccardo da Torino, che vuole sapere novità, ma parleremo naturalmente di tunnel carpale, di dito a scatto. Insomma, le nostre mani ci possono dare anche tanti problemi, sono un organo complesso che va assolutamente tutelato, e noi lo faremo oggi con l'aiuto di una grande esperta, la dottoressa Simonetta Odella, che resta con noi sino alla chiusura di Cuore e Denari. Cuore e Denari. Mani, le mani parlano di noi, a volte dicono più delle parole, lo sappiamo bene noi che siamo il popolo dei gesticolatori per antonomasia, ma oggi ribaltiamo la situazione. Chiamate il nostro numero verde 800 24 00 24 e diteci tutto delle vostre mani, se qualcosa è cambiata nella loro forma, se sono doloranti, se si addormentano, formicolano, se sono particolarmente sensibili, avvertono di più la fatica, se sono meno forti, fanno fatica a stringere o ad afferrare. Insieme a noi la dottoressa Simonetta Odella, che è un chirurgo della mano, perché questo organo ha proprio un chirurgo dedicato. Dottoressa Odella, è così? È vero, siamo proprio dedicati solo ed esclusivamente alla cura della mano e del polso, perché sono talmente complessi che ci vuole proprio una dedizione totale e completa. Ci permettono di fare i movimenti fini e sono le uniche articolazioni del nostro organismo che ce lo consentono, e quindi vanno ben curate e preservate. Io ho anticipato ai nostri ascoltatori che lei avrebbe suggerito dei test di autovalutazione per misurare lo stato di salute di questo organo, no? Perché è un organo, a tutti gli effetti si tratta, e intercettare sul nascere eventuali problemi o stati di disagio. Ad esempio, appoggiare le mani sul tavolo, distendere le dita, allargarle sino a raggiungere senza sforzarla l'ampiezza massima, è un esercizio alla portata di tutti. Può sembrare assolutamente quasi inutile, ma invece rileva tante cose. Iniziamo da qui, dottoressa Odella. Noi abbiamo le mani sulla nostra scrivania, allarghiamo. Che cosa ci racconta questo gesto? Beh, innanzitutto dobbiamo valutare se riusciamo ad appoggiare completamente il palmo della nostra mano al tavolo, e così anche le dita. Nel caso in cui questo non fosse possibile, le cause possono essere molteplici, ma la più frequente è quello che si chiama malattia di Dupuytren. Si creano dei cordoni di tessuto rigido che fanno sì che le dita rimangano in posizione piegata, in posizione flessa, anche quando cerchiamo di estenderle completamente ed appoggiarle al tavolo, per esempio. Oppure possiamo avere delle rigidità a carico delle articolazioni delle dita, non dovute ad un morbo di Dupuytren, ma piuttosto ad una deformità dei capi ossei, ancora una volta quindi dovuta ad un invecchiamento articolare. Bisogna individuare bene qual è la causa per poi procedere alla cura e cercare di recuperare bene la funzione della mano. Perché non c'è niente di più fastidioso di un dito che rimane piegato quando lo vogliamo estendere. Proviamo per esempio a dare la mano a qualcuno con un dito che è obbligatoriamente piegato. Non riusciamo, così come non riusciamo ad afferrare degli oggetti. Cioè dà molto fastidio il fatto di non poter estendere completamente le dita nei nostri gesti quotidiani. Allora, se vi riconoscete in questi profili, chiamateci, la dottoressa Della ci aggiornerà anche sui trattamenti e ci suggerirà anche delle attenzioni preventive. Dottoressa Della, voleva aggiungere qualcosa prima di andare ai nostri ascoltatori? Aspettiamo le loro telefonate, che così sentiamo che cosa ci vogliono chiedere e diamo mano a mano magari le giuste soluzioni. A proposito di mano a mano, vedi, Riccardo da Torino, buongiorno. Buongiorno, ottima trasmissione, questa volta ne approfitto io. Grazie, siamo contenti. Sempre. Riccardo. Senta, a me 8 anni fa è stato diagnosticato il morbo di Dupuytren, visto che avevo un ispessimento nelle fasce del palmo, e è stato diagnosticato in uno stadio tra 0 e 1, quindi proprio all'inizio. In 8 anni non è progredito, fortunatamente, è rimasto costante. Io quando appoggio la mano, come dite voi, ho sollevato l'anulare di 1 grado, 2 gradi, quindi è una cosa microscopica, cioè sento. E mi avevano detto che la cura era quella più sicura, era quella invasiva, nel senso chirurgica, pesante. Mentre io avevo letto che in Francia avevano privilegiato un trattamento mini invasivo con ago sottile. Sì. Volevo sapere se in questi 8 anni... È cambiato qualcosa, dottoressa Della. È vero. La chirurgia della mano sta diventando sempre meno invasiva e anche per la sindrome di Dupuytren ci sono delle novità di cui avevamo già parlato in precedenti trasmissioni. È vero. Beh, intanto Riccardo giustamente è un uomo, perché il morbo di Dupuytren colpisce prevalentemente per una volta la popolazione maschile rispetto a quella femminile e quindi è un paziente diciamo tipo. È anche corretto il fatto, è tipico il fatto che alle volte si formano questi cordoni di tessuto ma che rimangono molto stabili molto a lungo per tantissimo tempo, quindi è inutile intervenire chirurgicamente subito, anche perché purtroppo la patologia tende a ripresentarsi nel tempo. Ecco perché suggeriamo di non intervenire immediatamente, ma quando non è più possibile appoggiare completamente il palmo della mano al tavolo. È vero che i migliori risultati si ottengono con la chirurgia tradizionale, così come ci ha detto il nostro radioascoltatore. Ma è anche vero che adesso ci sono delle collagenasi, una nuova sostanza, che ci permette di sciogliere questo cordone di tessuto patologico senza incidere la pelle, quindi decisamente più conservativo come tipo di trattamento. Un trattamento conservativo che è indicato quando la malattia è ai primi stadi o funziona indifferentemente nelle... scuole di pensiero, c'è chi dice che solo negli stadi iniziali, c'è chi dice negli stadi avanzati. Certo è che bisogna farlo in un centro specializzato, è una tecnica molto delicata che viene comunque eseguita in ospedale, in sala operatoria e che viene eseguita in 2 tempi. In un primo giorno viene eseguita l'infiltrazione di questo liquido che va a sciogliere in modo selettivo le fibre patologiche e il giorno successivo viene eseguita l'estensione in sala operatoria. Bisogna stare molto attenti, soprattutto negli stadi avanzati, perché quando per lungo tempo le dita rimangono in posizione flessa si ha un accorciamento dei tessuti molli e quindi allungare il dito in modo troppo violento potrebbe portare ad avere delle conseguenze anche di tipo vascolare, perché i vasi non sono più abituati ad una determinata lunghezza, quindi deve essere eseguito in mani molto esperte e molto prudenti. A proposito di mani, ci sono tante persone che ci stanno sottoponendo i loro casi, ma non sanno a quale specialista orientarsi. Via WhatsApp ci manda un messaggio un'ascoltatrice che ci scrive che è da un po' di tempo che le è venuto un dito a scatto. Ci chiede la ragione, ma soprattutto se deve andare da un ortopedico, si va da un ortopedico, si va da un chirurgo della mano, si va da un fisiatra, dove si va? Allora, la chirurgia della mano, noi diciamo che è un po' una terra di confine, viene seguita sia dagli ortopedici, che si dedicano proprio alla chirurgia della mano, che dai chirurghi plastici, quindi sia il chirurgo ortopedico che il chirurgo plastico si occupa della chirurgia della mano poi in modo monospecialistico. Il dito a scatto è una banale infiammazione dei tendini flessori della mano, mm-hmm, che si gonfiano a causa dell'infiammazione e rimangono incastrati al di sotto di un ponte di fibre che li sovrasta nel palmo della mano, ed ecco perché rimane chiuso il dito. In questo caso però è possibile l'estensione, seppur con un gran dolore, perché non c'è un cordone di tessuto che blocca il dito, ma è soltanto un tendine che si incastra nello scorrimento al di sotto di un passaggio di queste fibre che sono al di sopra di esso a ponte. La terapia è una terapia che nel 70% dei casi è risolutiva in modo conservativo ancora una volta, quindi con 1 o 2 infiltrazioni al massimo nel 70% dei casi riusciamo a risolvere, a sbloccare questo problema, questa situazione. Ci sono delle attenzioni per prevenire questo disturbo? Esiste una sorta di familiarità? Ma è un disturbo legato ad un sovraccarico meccanico, per cui sicuramente chi lavora molto con le mani è più facilmente predisposto a questo tipo di problema. La prevenzione dovrebbe essere il riposo, che però non sempre può essere attuato chiaramente, e quindi bisogna poi cercare di attuarlo almeno nella fase acuta della patologia, tenere un po' le mani a riposo, mettere il ghiaccio sul palmo della mano con un panno di tessuto interposto in modo tale da ridurre la tumefazione e ridurre l'infiammazione a carico di questi tendini. Allora, non lavora con le mani la nostra prossima per ascoltatrice. Fortuna non ha problemi alla voce, anzi quella è sempre squillante, speciale. Alessandra, posso dire anche il cognome? Certo. È la nostra Alessandra De Luca, la nostra, eccola, speaker, la donna che abbellisce le nostre trasmissioni con grande professionalità, oltre che con una grandissima dote vocale. Però Alessandra, insomma, stamattina non ci interpella per la voce, no, peraltro argomento che abbiamo anche trattato a cuore, certo, denari, ma certo, ci interpella proprio sul tema che stiamo affrontando, il nostro tema di cuore, anzi di mano direi, Alessandra. Ciao, sì, esatto, ciao a tutte e due. Ecco, renditi subito riconoscibile ai nostri ascoltatori. È un argomento insolito. Ecco, allora sarò velocissima. Mano destra, ho rotto l'anulare, ma credo 8-9 anni fa, sono stata operata e purtroppo vabbè, quello è rimasto, non riesco più ad avere una presa totale, quindi mi cascano le monete dalle mani, non riesco ad aprire le cose e vabbè, quello mi hanno detto che è abbastanza irrimediabile, così rimane. Invece mano sinistra, da febbraio dell'anno scorso, io ho iniziato ad avere un problema sempre all'anulare, dove porto la fede, l'anello di fidanzamento. Non è una mano che uso particolarmente, insomma. Ho iniziato ad avere una forte infiammazione che si è trasformata in un dito a scatto molto doloroso. Ho fatto 1000 cose perché mi avevano detto che dovevo essere operata. Io non volevo, e allora ho cercato di curarlo in altro modo. Allora, prima ho fatto la ionoforesi, poi mi hanno fatto un tutore notturno, un tutore poi, diurno. Insomma, questo dito insomma, però continua a darci problemi. Brava, ecco. Cioè è rimasto. Potrebbe azzardo, eccetera. Alessandra, sì? Prima di dare resta con noi, diamo la linea al traffico. Azzardo, non è che c'è magari l'allergia all'anello di fidanzamento, potrebbe essere anche questo. Andiamo a sentire che cosa succede sulle strade. Cuore e denari. Se sei un amico ti stringo la mano, se chiedi un aiuto ti tendo la mano, e prendi la mano e dammi la mano. Oggi affidiamo le nostre mani alla dottoressa Simonetta Odella, chirurgo della mano al Gaetano Pini di Milano. Dottoressa Odella, un caso che ci sta particolarmente a cuore, come tutti quelli dei nostri ascoltatori che intervengono a cuore denari, della voce, di una delle voci di Radio 24, Alessandra De Luca, ha un problema all'anulare. Io ho ipotizzato, magari è allergica all'anello di fidanzamento. Può anche capitare, certo. Però lei che è più seria di me, che cosa può essere successo e perché questo anulare dà così tanti problemi? Perché purtroppo ricade nel 30% dei casi in cui la terapia conservativa non è riuscita a risolvere il problema. ha fatto veramente di tutto, da quello che ho sentito, compresa la ionoforesi con l'Orudis, che è un'ottima terapia antinfiammatoria. Può anche essere, bisognerebbe fare un'ecografia, che è un'indagine poco invasiva e poco costosa, che serve per vedere lo stato di salute dei tessuti molli e quindi del tendine flessore dell'anulare, per vedere se per caso c'è associata alla tendinite anche una piccola cistina tendinea. In questo caso la terapia conservativa difficilmente riesce a risolvere il problema e quindi l'unica soluzione è ricorrere al bisturi, soprattutto se dopo così tanto tempo continua ad esserci il dolore, continua a esserci il fastidio. È un intervento in anestesia locale, in regime ambulatoriale, è una cosa che si risolve nel giro di una mattina, per cui tutto sommato in questo caso forse potrebbe essere la giusta soluzione. Quindi è sempre bene iniziare con una terapia conservativa in generale per tutte le patologie che possono interessare la nostra mano, le dita della nostra mano, e poi ricorrere un po' al bisturi nell'ultima, come ultima spiaggia, o ci sono invece delle patologie per cui è bene indirizzarsi subito alla chirurgia? Beh, allora io ho sempre un approccio molto conservativo, penso sempre che se fossi la paziente ricorrerei al bisturi come ultima spiaggia, e quindi è quello che cerco di fare poi sempre con i miei pazienti. Ci sono dei casi in cui però purtroppo il bisturi è necessario, per esempio l'anulare dell'altra mano della nostra Alessandra probabilmente ha avuto una frattura e frequentemente in caso di fratture è necessario, se sono scomposte, ricorrere alla chirurgia per poterle ridurre. Anche se nel caso delle dita della mano frequentemente poi ci sono dei problemi di rigidità, come anche in questo caso è successo. Una patologia della mano in cui è molto importante il timing è la sindrome del tunnel carpale. Questa preferisce noi donne, vero? Sì, ecco. Ancora una volta noi donne siamo le predilette, ancora una volta intorno ai 50 anni o durante il periodo della gravidanza. Per un fatto ormonale, quando tendiamo ad avere della ritenzione idrica, essendo il disturbo causato da una compressione del nervo che scorre in questo canale del polso creato da un letto di ossa e un tetto di tessuto fibroso non elastico, quando questo nervo viene compresso si ha il tipico formicolio alle prime tre dita della mano e a parte del quarto dito. A cui si aggiungono altri sintomi, dottoressa Odella, tipo la perdita di sensibilità, la difficoltà anche nei movimenti, oppure solo il formicolio che deve insospettirci? Inizialmente si ha un formicolio e un dolore notturno, l'esordio è proprio durante la notte. Arriva come la Befana, no? Sì, esatto. Adesso si sta preparando. Si prepara e arriva durante la notte per due motivi fondamentali. Uno, perché dormendo in posizione orizzontale i tessuti molli tendono a gonfiarsi e quindi ancora una volta aumenta la compressione a carico di questo nervo. E l'altro invece è un motivo molto particolare. Di notte tendiamo a riassumere la posizione fetale, quindi a portare i polsi flessi e le mani sotto al mento. Questa posizione di flessione del polso è quella che crea una maggior compressione del nervo all'interno del suo canale. Ecco perché nelle fasi iniziali della patologia è proprio la notte il momento peggiore. Quindi è meglio la notte mettersi un piccolo tutore? Sì, è meglio la notte mettere un tutore. Nelle fasi iniziali la terapia è proprio questa, si mette un tutore durante la notte, si possono assumere degli integratori speciali che nutrono la guaina del nervo per la sua conduzione della sensibilità. A base di quali sostanze sono questi integratori? Sono vitamine e acido alfa-lipoico nella maggior parte dei casi. Si assumono una volta o due al giorno a seconda del dosaggio del farmaco per almeno 6 settimane e si vede se questo tipo di trattamento può essere risolutivo, magari nelle fasi iniziali o magari con delle infiammazioni associate dei flessori che scorrono con questo nervo all'interno del canale carpale. Già delle terapie di questo tipo possono alleviare e migliorare la sintomatologia. E noi andiamo, Debora, ad un altro ascoltatore, Carmen. Sì, andiamo a Carmen, quindi che un'altra proprio ascoltatrice. Si ritrova descritta nella situazione che ha ben puntualizzato la dottoressa Odella. Carmen, buongiorno. Buongiorno. Io chiamo dalla provincia di Chieti e sono un agricoltore, anzi adesso sono in campagna, sto a potare le mie vite e ho praticamente questa mano che mi fa molto male, anzi tutte e due, e mi è stato diagnosticato un sindrome del tunnel carpale da operare immediatamente, però io non riesco a stare ferma molti mesi. filosofia del mio lavoro. E quindi deve stringere i denti e lavorare con questo dolore che è particolarmente fastidioso, e immagino anche che, se sollecitato da alcuni movimenti particolari, peggiori. Dottoressa Odella, allora, tempo per operarsi la nostra Carmen non ne ha. Il suo lavoro è abbastanza pesante, adesso sta potando, quindi lavora proprio di mano. Quale suggerimento concreto potrebbe dare a Carmen? Beh, purtroppo di non trascurare la patologia, perché se la compressione a carico del nervo viene protratta per lungo tempo, poi anche con l'intervento chirurgico non è più possibile recuperare completamente la sensibilità. Ecco, questa è una buona indicazione, quindi non aspettate troppo, perché poi questo ritardo si può pagare. Sì, e se Carmen inizia ad avere il formicolio non solo durante la notte ma anche durante il giorno, a questo punto diciamo è il momento giusto per intervenire chirurgicamente. In realtà poi non è necessaria un'immobilizzazione di tanti mesi, ci sono 15 giorni in cui si tengono i punti di sutura, le prime settimane certo bisogna stare un po' attenti, ma nel giro di 20-30 giorni al massimo si recupera e si può ricominciare a lavorare bene, anche prima addirittura. Ma dato all'attività lavorativa molto impegnativa di Carmen, forse in questo caso è meglio aspettare un pochino più a lungo. Dottoressa Odella, abbiamo anticipato che non ci saremmo fermati alla mano, ma ci saremmo allargati sino al polso, che a tutti gli effetti fa parte dell'organo mano, no? Trascurarlo può essere molto rischioso, soprattutto un po' come succede con la caviglia. Quando noi prendiamo una distorsione della caviglia, magari facciamo una fasciatura, poi vediamo che sta meglio, continuiamo a camminarci sopra, ma alla fine, a distanza di poco tempo, notiamo che la caviglia non è più quella di prima. La stessa cosa si può dire del polso, che è un po' la caviglia, no? E corrisponde un po' alla mano, alla caviglia della mano, certo, diciamo. L'anello di congiunzione. Ecco, l'anello di congiunzione, determinante non solo per il benessere della mano, ma anche per la forza, ad esempio, di tutto il braccio. Quali indicazioni possiamo dare ai nostri ascoltatori per mantenere dei polsi efficienti e sani? Beh, innanzitutto, nel caso in cui vi siano dei traumi a carico del polso, bisogna accertarsi bene non solo che non ci siano delle fratture, quindi delle lesioni a carico delle ossa, ma che non ci siano delle lesioni anche ai legamenti del polso, che sono molto importanti per la stabilità. Il polso è costituito da tante piccole ossa legate tra di loro da questi legamenti, e forse uno dei più importanti è quello che lega lo scafoide, l'osso scafoide al seminunare. Frequentemente, quando ci sono delle lesioni di questo legamento, può capitare che non vengano riconosciute nell'immediato. Non riconoscere questo tipo di lesioni, così come anche le fratture dello scafoide carpale, può portare nel tempo ad una degenerazione molto importante, quindi ad un invecchiamento precoce, diciamo, del polso, fino ad avere poi molto dolore e molta limitazione nelle nostre azioni. Come quindi possiamo accorgercene che il nostro polso in qualche modo è stato danneggiato? Abbiamo un minuto al termine della trasmissione, dovremo continuare così, sono tantissimi i nostri ascoltatori, ma mi dia un'indicazione, qual è bisogna innanzitutto ascoltarci, quindi sentire se c'è del dolore. Se c'è del dolore, fare come prima indagine diagnostica una radiografia. Già dalla radiografia possiamo avere tantissime informazioni. Dottoressa Odella, noi dobbiamo quasi salutarci, ma volevamo rapidamente andare da Anna da Firenze, se possiamo dare un'indicazione. Anna? Sì, buongiorno. Buongiorno, perché ci descrive un dolore. Io ho un problema, che la mattina quando mi sveglio ho il medio e l'anulare piegato e non riesco a muoverlo. Poi piano piano, alzandomi, torna normale, ecco, normalissimo. Quando si sveglia Anna, completamente si risvegliano anche le dita. Dottoressa Odella, siamo due dita a scatto, due dita bloccate che al mattino poi, con l'avanzare della mattinata, si sbloccano. Beh, è normale, perché durante la notte, come abbiamo già detto, c'è una maggior tumefazione dei tessuti molli e quindi lo spazio di scorrimento dei tendini flessori risulta essere ridotto. Poi con l'andare della giornata probabilmente queste dita un po' si sgonfiano e lo spazio di scorrimento aumenta. Ma un'altra causa che potrebbe essere è quella dell'artrosi. All'inizio, al mattino, al risveglio, se abbiamo delle articolazioni, certo, che sono artrosi, che sono un pochettino più rigide. Sì, un pochino più arrugginite. Poi con il passare del tempo è come se mettesse un po' di olio. Dottoressa Odella, grazie di cuore per essere state con noi. Grazie molte. Buon anno anche a lei, naturalmente. Grazie, altrettanto auguri. Buon anno. Le auguriamo una buona giornata e un con buon una anno. Calorosa stretta di mano, naturalmente. Sì. A domani. A domani.